Going on a road trip, huh? Yeah. On a tour of America's most famous UFO hotspots. I hear that. I cannot believe we're going to see Area 51. I'm Paul. Quello che, state ascoltando è il trailer in lingua originale di Paul, questo nuovo film. Si parla di un alieno, è uscito mercoledì anche nelle sale italiane. C'è la voce di Elio, che insomma è un po' una chicca aggiuntiva a questo cortometraggio, un film di animazione. Beh, e dietro all'animazione di questo personaggio c'è anche un italiano, si chiama Gianluca Fratellini, nasce a Modugno in provincia di Bari, ha girato il mondo, ha girato l'Europa, gli effetti speciali sono la sua quotidianità, e proprio gli effetti speciali e l'animazione 3D è stata la molla per girare in Europa. È una bellissima storia e quindi ci piace averlo qua con noi. Ciao Gianluca. Ciao Federico, buon sabato. Ciao. Come va? Bene. Tra l'altro io con Gianluca, quando ho conduciuto Screensaver, ho avuto la fortuna di essere uno dei primi, forse, vero, a farti conoscere, ti ricordi? Diciamo che mi hai portato fortuna, diciamo, 8 anni fa l'incontro, adesso è quello ravvicinato con Paul. Gianluca, dalla Puglia all'Europa, noi diamo un taglio europeo alle nostre notizie, tu hai scelto Londra adesso come casa, dove lavori nello specifico? Dunque, attualmente lavoro a Londra per la Double Negative, che è una società di effetti speciali e animazione, e si tratta anche film come Harry Potter, Prince of Persia, Inception, non so se l'hai visto. Immagino di sì. E niente, quindi sono qui a Londra di passaggio, immagino, visto che comunque giro il mondo parecchie volte e non smetto mai di fermarmi da qualche parte. Che la tua però non è una fuga, nel senso che non stai scappando, vai là dove, no, c'è, dove c'è lavoro. Non fugo da nessuno, solo dal governo italiano, questo sì. Ecco, no? Adesso qui, insomma, quelle sono scelte personali che non c'entrano niente con l'animazione 3D. Esatto, no. E Gianluca, abbiamo veramente una manciata di secondi. Bisogna andare negli Stati Uniti per fare questa professione, o l'Europa sta finalmente dicendo qualcosa e sta finalmente conquistandosi un proprio spazio? Guarda, io credo che anche in Europa sono cambiate parecchie cose, anche nella cinematografia mondiale, quindi i lavori che arrivano anche dall'America trovano terreno fertile anche in Europa, tipo Londra, tipo altri paesi europei. Purtroppo in Italia è ancora arido il terreno, quindi non permette a molti talenti e molti cervelli, magari in via di fuga, certo, di esprimersi magari nella loro passione, quindi magari sono costretti, tra virgolette, ad andare a cercare, sì, altre possibilità di... E tu ce l'hai fatta da Londra, Gianluca. Intanto ci piaceva conoscerti, ci piaceva sapere che dietro questo Paolo c'era anche un italiano. Ci ritroveremo sicuramente per conoscere meglio la tua storia.